invece e ci sono rimasto io, se ne sono andati tutti. Beh, mi hanno chiamato, mi sono allontanato un pochettino, infatti non so se l'ha sentito Claudio, l'avevo detto a Claudio, se ve l'ha riferito. Io manco sapevo che c'era Natalino. Ciao Natalino, buonasera, ben ascoltato. La squadra tua sta perdendo, Claudio. Ma c'è la biglia in cui, guarda il galave, ragazzi, spaccare te. Sto guardando col telefonino, 67esimo, 0-1, Juve, Sassuolo. Sì, già sto guardando anch'io. E oggi ho preso una gossa. Cioè, questo discorso di cambiare le magliette, cioè prima tutte le squadre ci avevano i colori sociali, allora anche in casa giocano con magliette di un altro colore, adesso la Juventus sta giocando con le magliette nere, buh. Io l'ho vista, buh, ti sono in lutto, sto frigendo, sono in lutto. E beh, Natali, che si dice di bello? Sì, che si dice? Cosa ci volevo dire? Mi stavi parlando di quell'R1000. Ah, di quello con l'apparecchio là? Sì. Se ti interessa, ne saranno due, saranno l'ICR 7000 e l'R1000, tutti e due 400 euro. Se ti interessa a te, però separatamente non li vende. Come? Mi senti? Sta vendendo l'R1000 e l'ICR 7000, tutti e due a 400 euro. Gli ho detto se vendeva separatamente l'ICR 7000, ma una cifra troppo alta. Se ti interessa, ci dividiamo la spesa, tutti quelli l'R1000 e io mi prendo il 7000. Ma non lo so adesso, è quello. Avverrà, già ti faccio sapere, Roberto. Beh, sempre non si è già venduto, dai. Ok, non c'è problema. Io ce l'ho già il 7000, però magari per prenderlo puoi fare degli scambi, trovare qualcuno che hai di interesse e mettere a qualcosa di diverso. Sì, ho capito. Ma classe, avevano la partita? No, spento, stavo dando solo un'occhiata, non mi interessa. Mi metto adesso, me ne vado dall'altra parte, guardo un TG e poi ceniamo. C'è il bigliello C. Come ti dice, se la bella è in cosa di bossa, ma come dite voi, non me lo ricordo. Natalino lo sa come si dice, col buono. Ma è più di bella, in nome di bossa, ma. Ma che lingua è il nome di bossa, ma? Che è algarese, cos'è? Napolitano, eh. E cosa vuol dire? Come ti posso amare. Ah, pensavo tipo una blasfema, che ti venga. Iuia. Pigliala come ti posso amare, capito? È tipo un sassarese, a pigliarla che tu paesi. C'è Mirko anche, non so se ha cambiato frequenza, se ancora in FM. Mirko. Non sentivo solo io a Mirko, lui sentiva gli altri, però io riuscivo solo a capirlo, gli altri non lo sentiva nessuno. Mirko, ci sei ancora? A me mi arriva oltre 9, 9.5 arriva, è che aveva la radio un po' bassa, infatti ho detto sollevati la radio, adesso ci metto un accordo con Natalino, gli ho dato il numero di telefono, l'ha dato in diretta qua in radio e così magari riesce a migliorare la situazione. No, perché c'è la stessa radio. C'ha lui il 6.009 e il 3.009, però sta usando un microfono da palmo, non si intende nulla. Infatti gli ho detto, se il segnale è oltre 9, 9, 5, arrivi, però la radio è bassa bassa, in FM un po' un mese andava. E Natalio dice c'ha un MB più 4, 4 o 5 era Natalio? 4 e poi ce l'avevo nel coso, nel 3009. No, ho detto sul microfono, l'MB più 4 o più 5? Più 4. Ed è nuovo. In scatola, L'ho messo lì perché mi sto usando il microfono normale nel 3009. Per questione di spazio. Ehi, se non ti serve 50 euro glielo puoi dare, sei nuovo. Ed è già cablato per il coso, l'hai fatto tu il cablaggio o è l'originale che va bene lo stesso? No, io l'ho fatto, se vuoi te lo faccio sentire, attacco al 3009 o a questo e te lo faccio sentire. No, a me non mi interessa, ne ho un paio di MB più 4, MB più 5, cioè, non mi servono. È solo per capire se quando l'hai preso il cablaggio corrispondevano ai contatti al 3009 o l'hai dovuto cablare tu? No, sono al contrario, perché sono fatti per l'omologato, sono fatti. Il 3009 ce li ha alla rovescia, ho dovuto cambiare le connessioni. Via, ok, vai qua. Via. Quindi a me Mirko mi arrivava 9.5 9 più 10 in FM, è quasi 9, sì, anche a me arriva quasi 9 in AM. No, in FM cacchio mi arriva a fondo scala, chissà perché questo cazzo di radio, quando sono FM i segnali si moltiplica, arriva a 9,60, però non conta niente, è un 9 più 5 più o meno. Come mai? No, questo è preciso, questo è, lo sai, questa, fate quelle tarature là. Anche tu sei 9,30 in AM e 9,60, però non arrivi sul DB, come arriva via Carbonanti, e 9,60 in FM. Natalino non l'ho sentito, ma FM, Natalino è quasi 9 in AM, lui dovrebbe essere più o meno 9,10 in 9,20 in FM. No, questo è tarato alla perfezione. Perfetto, quella volta l'ho fatto, perfetto, tornata alla normalità, l'altra radio, adesso mantiene le memorie, tutto, messo la batteria nuova, tampone, tutto. E stai andando alla grande, meglio così, dai. Poi quando li cambiate le batterie tra 10 anni, cioè, non fai altro che togliono il tappo e me. Ah, sì, almeno non devo risolvere niente. Tolgo il tappo, ci do la batteria e metto quella nuova, col caricabatterie, ma l'autofabbri è veramente, cioè quel portabatterie è veramente eccezionale. Altrimenti devi saldare, disaldare, è un casino, invece la sede è già pronta, non fai altro che togliere la batteria, come l'orologio e mettere quella nuova. Ma ho già di una futti, Natale, ma ho già di finire di nare, ci ritorno, ma per ascoltare che cosa? Tu, oh, il lascia verde, non è più nessuno. Cosa devi ascoltare? L'HF, io sono sempre... ascolto a 7115 in 40 metri, in 80 la sera a 3650, 3660, 3630. Ma dalle altre parti non c'è più nessuno, va. E quelle che mi mancano, le HF, capito? Se non riesco a farne di cazzo di HF. Però qua un R1200 euro è regalato, ma... io ti capisco che mai c'è un ricevitore. Se tu a Natalino, cioè se ti ha mai capito, no, quell'operazione che abbiamo parlato noi, cioè un HF a quella cifra non è meglio di un ricevitore. Assolutamente d'accordo. Allora vedi, cioè io ho sempre fatto quel discorso, sempre. Cioè cosa me ne vuoi di un ricevitore quando con quella cifra io trovo un ricevitore? Mi va di parlare e parla, non mi va di parlare e ascolto, no? È tutto lì, ma non serve a niente, capito? Assolutamente. Se lo lasci andare in porto quell'operazione che sappiamo noi, magari si avverte a Natale, se c'è la disponibilità, le fa fare quell'operazione lì. Capito, ma almeno c'è un ricetrasmettitore, gandolo vuol dratta rubrata, gandolo vuol dratta fa solo ascolto. Perché oggi questi tipi di radio li trovi a 250 euro, ma massimo 300, cioè vai a comprare due ricevitori a 400 euro, ma cosa me ne voglio? Infatti, se me lo buscate uno buono lo prendo, non c'è problema. Vabbè, ma ci vanno 300 euro comunque per prendere un HF, un 140 se sei fortunato lo trovi a 250, stando molto attenti se trovi il padrone, sai come lo usa, se no bisogna stare ben attenti, un 4,40 dai 300 euro su, 350, vari se proprio di quelli perfetti, allineati e cosa, lo puoi pagare un pochettino di più se ti dà anche l'MC60. Infatti. 3,40 mi piace di più. Mi ha mandato una foto Luca, 300 euro, nuovo, 300 euro, 4,40, perfetto, nuovo, non so dov'è la BGF, una cosa del genere, continente, ma uno che conosce lui, quindi è anche magari garantito, cosa, oramai non ce n'è più prezzo per questi tipi di radio, io perché mi sono tenuto il 4,40 l'ho venduto, ho preferito ottenermi 430, che anche parlando l'altro giorno con Marco parlavamo proprio di queste cose, molto più selettiva la radio. 430 se lo mangia nulla e crudo al 440, 440 è più performante solo perché c'è l'accordatore incorporato e 100 memorie, ma a me non me ne ha funzionato, a me dell'accordatore non deve avere 100 memorie, io preferisco avere scrivere 10 memorie senza correttore, però quando vuole in trasmissione e ricezione manca a paragone quello qua 340. Meno problematico, da meno problemi, ripeto, è un altro tipo di radio. Capito? Io posso dirlo tranquillamente, ne ho avuto una decina di 440 e mi hanno creato sempre problemi, sempre. Alla fine ha giudito basta. Tutto qua, vai Roma. Io avevo 1-1 comunque, ha pareggiato McKennie, un bel gol di testa ha fatto. Adesso c'era Sassuolo che sta attaccando, ha fatto una bella azione. Sì, no, il 4-30 sicuramente è una radio più robusta, tu per esperienza ci insegni. E poi nel canale magari 00 ti metti il canale 40 e c'hai già tutti i canali selettivi, ma è molto più semplice da usare, è molto più maneggevole, più insomma. Ed è una radio che io ho tenuto, quasi un anno dentro l'armadio, e l'unica cosa che è successa qual è? Si è scaricata la batteria a tampone delle memorie, rimessa a posto, ed è perfetta, cioè una radio è un muletto, non c'è niente da fare, è un muletto, come il 430, sia 80, 430, 140 sono il numero uno di quella serie lì, 440 è una cosa impressionante, cioè io dovevo, da sempre l'ho fatto, la mattina quando mi alzavo per andare a lavorare, la prima cosa che facevo prima di andare in bagno, accendevo il 440, staccavo l'antenna, volume zero e basta, tutti i santi giorni, perché se io lo lasciavo senza accenderlo tutti i santi giorni mi creava problemi, alla fine mi sono stufato, basta, capito? Vai Natalino. Ma io non ho già dubbi e non mi hanno dato mai problemi. L'accendio quando li dovevi accendere, quando l'accendio era già pronto. Beh, non lo so, i miei erano perfetti, due ne ho avuto, di quelli lì, e non mi hanno dato mai il minimo problema. Sai perché l'accendevi tutti i giorni? Tu prova a lasciare un 440 un anno dentro l'armadio, magari vai fuori per lavoro, come è successo a me, io mi avevo trasferito a Cagliari, quindi non è che mi potevo portare la radio. E viaggiavo da lunedì al rientravo il venerdì sera, dopo le 5 partivo da Cagliari e quindi rientravo al buio. Praticamente c'era la domenica, non che stavo pensando a prendere la radio dall'armadio, attaccarla, mi vedevo la famiglia, insomma facevo altre cose. Quando poi l'ho ripresa per riattaccarla normalmente, per metterla fissa, non attendia più la radio, c'erano completamente condensatori scarichi. Capito? Uno tenerla accesa tutti i giorni, oppure l'accendi un giorno sì, tre no, due giorni sì e quattro no, mi sta anche bene, ma tu prova a lasciarla ferma come io ho lasciato il 140, avrei già registrato il 440, e ci devi buttare i soldi sopra, non c'è niente da fare, è un difetto. Io mi ricordo, lo comprai nuovo da Mario Notari, ok, da Audiolinea, da Mario Notari, lo comprai nuovo, dopo neanche un anno, mi sono apparsi i puntini, sono andato a Mario e ho detto, ma questa radio, cioè guarda cosa fa, l'ha messo al marco, non ti preoccupare, è un difetto della casa, cosa vuol dire? Cioè io ho comprato una radio difettosa, no, ma è un difetto che poi capirai col tempo, e così è stato, col tempo l'ho capito qual era veramente il difetto di quella radio, è nata così. Se lo trovo un 140 me lo biglio, però ma sono abituato al 440, io capito? Ma sai, il 140 tu quando lo accendi, e ti metti a fare altre cose, lo lasci 10-15 minuti acceso, guarda, è una cannonata, io non ho mai toccato niente, non ci bisogna stare con lo slider, sali, scendi, no, tu lo stabilizzi a caldo, quanti watt devi dare a caldo? 10 watt, 20 watt, a caldo le dai, la regolazione è sua, lui dal momento in cui tu lo accendi inizia a stabilizzarsi, tu quando vai a schiacciare la portante c'hai i watt che tu gli hai messo, semplicissimo, senza nessun problema. A me è sempre piaciuto sia il 140 che il 80, sono uguali, uno alla scheda di civetta, però la mia radio principale è il 430, no? Non c'è niente da fare, è una radio che viaggia forte. Me ne sta andando Robert. Di russo. Hai visto? KK K del Roggero. E così è. No, non c'è da fare, perlomeno. Io ripeto, le mie prove le ho sempre fatte. Se ho deciso di tenermi 4:30 è una motivazione, c'è, non è che non c'è. 4:40 è un'ottima radio, però come 4:30 fa molto meglio perché crea meno difetti. Io ce l'ho 10 anni, 430, 10 anni, e l'unico che ha messo le mani è stato Fabrizio, che mi ha cambiato il display, che si erano bruciati gli ultimi due decimali, e il filtro in AM mi ha messo basta. La radio non ha mai avuto nessuna riparazione. A trovarla è una buona. Anche il 4:30 andrebbe bene, però se trovo il 140 è meglio. Posso dire una cosa? Allora io ho avuto il 140, lo sai perché non mi è piaciuto il 140? Innanzitutto perché è un bel rumoroso, tu mi dirai è indistruttibile, un asino, un muletto, cioè troppo rumoroso in confronto con 440 come ricezione, molto un po' più di un baracchino, diciamo. E poi questo cacchio di slider che sono troppo piccolini, scomodi, eccetera. Solo per quello, per tutto il resto, quello che hai detto tutto va benissimo. Il 440 è delicato, se fai quell'operazione che mi hanno fatto al mio, cambiando tutta la serie dei condensatori, li metti quelli di qualità, come me li ha messi quell'amico carissimo nostro, grazie a Dio ce l'ho tanti anni e sta sempre andando. Ah, positivo, ma se non lo avrei avvicinato la gente competente, non c'è niente da fare. Io il mio l'ho venduto, ho revisionato sempre dal nostro caro amico, e lui l'aveva revisionato, figurati, forse 4 anni fa, 5 anni fa, l'ho venduto e ancora sta funzionando, l'ho venduto qua, l'ho venduto al produttore, ma sta funzionando perfettamente, è una radio ottima, eccezionale, mai avuto problemi. Però ti ripeto, devi avere quella consapevolezza che prima o poi ti può lasciare a piedi se tu non lo usi, mentre il 140 e il 430 non lo fanno, capito? Sì, beh, il 140 è un baracchino a sintonia continua, però ripeto, io mi sono sempre trovato bene perché lo so usare, nel senso che non sto lì a toccare e fare. Io lo metto a 10 watt per dire a freddo e ci parlo, quando lui inizia a salire e scaldare, si attacca la ventola che la potenza sale, ok, allora vado a regolarmelo per dire a 20 watt, basta, non lo tocco più, io quello che ho non l'ho mai toccato, io lo accendo 10-15 minuti prima, nel frattempo magari comunque parlo col 4:30 perché ho 3 conversioni, quindi se lo lasci a 50 watt il 4:30 lo accendi come il 4:40 ed è sempre a 50 watt, il 140 no perché 2 conversioni, capito? Quindi automaticamente ha bisogno di scaldare per tutto il circuito di alimentazione sul finale stesso, e quindi tu lasci scaldare 10 minuti e non è che sei un baracchino, parli col baracchino, nel frattempo quando lui già ha iniziato a prendere un po' di temperatura, c'ha i suoi watt, non lo tocchi più, il Mickey Gain è sempre nella stessa posizione, cioè devi fare queste operazioni, perché sollevare la potenza a freddo a quel tipo di radio, soprattutto al 140 e al 180, e non 2 conversioni, puoi crepare tutto, deve scaldare, queste radio devono scaldare, io l'ho sempre detto, quindi è così. Ma io non ne ho mai bruciato una, grazie a Dio, sono sempre andato, l'unico problema che ho avuto col 440, come tutti, che mi ha lasciato a piedi un paio di volte, 2 volte mi pare l'aveva fatto quella persona là, che conosciamo, e poi 2 volte l'ho dovuto mandare da Bianconi, ma mi ha sfellato, cioè mi ha costato per ben 2 volte, 200 euro una volta, 200 euro l'altra. Alla fine sì, siccome l'ho dato a un amico, gliel'ho dato a 400 euro, ma revisionato è tutto, ma era da non vendere perché già ci avevo messo altre 200 euro sopra, quindi alla fine ce li ho persi, ma non me ne ha fatti nulla, l'importante è che mi abbia tolto fuori da mezzo alle balle, capito Natalia? Sì, ho capito. Adesso abbiamo il Caterpillar qua, 430, o anche il 757 GX2, Natalia, che va molto bene lo stesso, me l'ho venduto un cuoco, ma però è nuovo, Sergio di è nuovo, ma nuovo, va, nuovo. Mancava la maneglina, ce l'avevo, della ICOM, l'ho appena accorciata, ma un pelino anche il Robert, e l'ho messa dentro sui cosi cromati, con le viti, è perfetta perché c'è lo stesso attacco, capito? Solo che era per la più lunga. E va bene, è nuova, c'è anche quella, no? L'accendo poco, ma quando l'accendo funziona bene anche quella lì. Lì c'è l'MC50 e va bene così. Va bene, dai, io vado a pappare, signori, che è già tardi, ciao Natalino, ciao Roberto e ciao a chi è in ascolto, in agguato, che credi Bobo? Sì, ok, ciao Fra, buon tutto, io rimango ancora un pochettino, tanto sto guardando la partita in sottofondo, diciamo una partita discreta, dai, ci stanno attaccando a vicenda, mi pare che ne una uno questa partita, se no anche non segni uno qualcuno per qualche errore di un avversario. Ciao a te, Claudio, di nuovo vai a tagliare saluti. Ciao Fla, buon tutto, buona cena, alle prossime. Ciao Tartariccia, se sento qualcosa magari ti avviso, se c'è qualcosa nell'aria ad un prezzo buono, io glielo sai quando a me serve una radio, me le vanno sempre garantite, quindi non ho mai avuto problemi. Se riesco a trovartela una è più preferibile prendere un 140, un 680 o un 430, capito, anziché prendere un ricevitore, secondo me poi vedi tutto. Vabbè, vabbè, se coincide ci vediamo domani, se no alle prossimine, ciao. Sì, ciao ciao. Allora, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare qua sul canale 10, se no riprendete una talina. Non mette nessuno, vai Natale. A me la, anche io me ne passo in quel RT, ci sentiamo alle prossime robe là. Speriamo di trovarlo un apparecchio così. Andare in meta. Intanto mi serve più che altro per ascoltare, capito? Questo di Alghero era un affarone, stava andando il 440, la colonnina, l'MC60 e il microfono normale con le scatole originali, i manuali di uso, tutto quanto 400 euro, quello era un bella perché non abbiamo ancora, però sono venduto. Ma però magari uno si mette d'accordo con uno, a me mi serve la radio, io ci dividiamo la spesa, io mi prendo il 440, tutti i pili di microfono e l'altro ci prende la roba parlante. Sì, infatti. Comprati una radio Galena a Natale. E Gianfranco, mi. Certo, questo Gianfranco c'ha 3.000 apparecchi e non me ne allunga uno. Non sapevo che ti serviva un apparecchio. Tutti quelli che c'avevo, vecchi tra virgolette, c'era anche un IC, poi non me lo ricordo più, quello che c'ha lo schermo grande, come si chiama? IC, non me lo ricordo, però è un signor apparecchio. Ma un ricevitore o trasmettitore? No, non ho capito. Cos'è, un ricevitore o trasmettitore stai parlando? No, tutti i trasmettitori. Poi era 795, no, 785, tu, quello che c'ha lo schermo grande, ce lo fa anche Claudia. 756? Mi sa che è quello, abbastanza moderno, cioè era tutto. L'ho dato al mio rivenditore perché ho preso tutti gli apparati nuovi, quindi ho smancato quelli vecchi. Quindi quanti ne ho dato? Insomma, lo ricordo, ma lo sai. 756 Claudio l'ha dato a un prezzo molto molto ragionevole perché c'era il display irrigato. Quello c'ha anche il coso, non è dato rispetto, l'ha dato a 400 euro. No, a me me l'hanno valutato di più, molto di più. E quindi ma io ho preso, che lo sai, roba che costava molto di più. Quindi gli ho dato due apparati, anche uno nuovo, tra l'altro, scatolato in garanzia, che però non mi piace, ne avevo due, uno l'ho tenuto qua come per bellezza e l'altro l'ho versato, ma quello mi hanno dato poco, perché comunque era, costava 400 e passa, mi avranno dato 200 euro, nuovo in garanzia, figurati. Cosa vuol dire allucinate? Accetto. Propriere del Sassuolo al 50esimo, 2-1, finita la partita. Aspetta, non l'ho visto, io sono ancora al 94esimo. No, finita. Sì. Ma contropiede che gli ha fatto? La difesa? A farfalle. Ciao Gianfranco. Eccolo qua, lo sto guardando adesso. 2-1, ha perso la Juve, 2-1. Per carità, che schifo. Che schifo. Ciao a tutti. Scatta, 2-1. A 94 e 57. Allora, vada per 5 minuti e recupero. Sì. Che sbaglia lo stadium. 2-1 è la prima vittoria. Allucinante. Guarda, penso di lui se mi dispiace, dai. Vabbè, ti sto dicendo, c'era la Juve in attacco, attaccato la Juve, quasi quasi stava per far gol, sbaglia il rilancio, il cross, il quadrato, la prende la difesa del Sassuolo, lancio lungo, solo, contropiede, a rasura, cioè la difesa indietro. No, l'ho visto, la sto guardando la partita in sottofondo, solo che sono probabilmente rispettate, ho 30 secondi di ritardo, perché a me era finita, quando tu hai il tuo gol, loro erano ancora dall'altra parte, la squadra della Juve, ha fatto il contropiede con lancio lungo, era fuzzito, vabbè, vuol dire che il calcio è più divertente quando succedono queste cose. Quindi ci ha fatto questa regalata del radio, hai sentito la classe? Sì, beh, gli ha regalato abbastanza, bello Gianfranco. Sì, a volte non rispondo in fretta perché c'è una radio aperta di quelle per servizio network. Adesso ho fatto una cazzata, ci ho fatto il buco, però mi sono dimenticato di controllare lo spessore e adesso non c'entra il coso, no, il jack femmina, che è più lunghina, anche ce ne sono poi. Quindi adesso devo guardare un po' nel farubicchio se trovo qualcosa. Ne sappi che lui c'ha una baracca sta piena di cassette, ne tanto va e ne toglie i pezzi, capito? Vabbè, no, sono incazzato vero, perché poteva finire 1-1, andava bene a tutte e due, ma come cazzo fai a prendere un contropiede 10 invece di Giulio che ha sfasciato qualcosa a casa sua? Cioè, come fai a prendere un contropiede 10? Ah, sbagli il cross, ti fai prendere la palla in aria, ha fatto un lancio, l'hai visto? Cioè, il contropiede è micidiale, proprio imparabile, roba da matti, vabbè. Va bene così, vuol dire che è andata così, eh? Ok, io dico sempre vinca il migliore. Ciao a tutti, QRT per me che vado a cenare, ciao. Yeah, ciao Cla, vai Natalia. Ciao Cla, buona cena, alle prossime. Mantenete a Danilo domani mio Roberto, sicuramente dice che no, non c'era, no. No, ti dirà qualche cosa, mi rimancava quello lì, l'allenatore ha sbagliato quello lì, io avrei fatto così. Domani faccio il voto a pezzi. Vai già fra. Aspetta già fra che mi sono andato al ferro vecchio lì a guardare nella baracca se trova qualche jack. Da Franco si è allontanato, o che cosa è successo? Sì, dicevi. No, ho chiamato poco fa, non ha risposto, ho detto forse si è allontanato Gianfranco. No, sono sempre qua, ma siccome sono in camera operatoria, ogni tanto mi devo allontanare dal paziente per rispondere, tutto via. E niente, sto guardando se c'è un qualcosa da metterci. No, ho fatto un buco inutilmente su una radio nuova, tra l'altro, ok. Vuol dire un buco? Sì, un buco per infilarci un jack, invece non ci sta. Ci sono tanti altri spinotti di tutti i generi, però non ci stanno, lo sai, no? Sono stretta. Io dico, con tutte le plastiche fine e sottili che fanno in tutti gli apparati, a questo la dovevamo fare grossa, ma roba da matti. Stavo guardando ieri, leggendo, sono iscritto in questo gruppo di questi che fanno tralicci, cose del genere, specialisti, sono proprio professionisti, fanno manutenzioni, eccetera, ne stanno tralicci. In questo paese, non so che regione sia, c'è questo traliccio, mi pare sia 60 o 70 metri, lo devono demolire perché ha fatto un accuso il sindaco per abuso edilizio. Lo sai cosa hanno riscontrato? Sono andati periti, controperiti, eccetera, eccetera, che il traliccio era spostato di 43 centimetri dalla posizione in cui doveva essere. Devono pagare la demolizione, la ditta installatrice deve demolirlo. Le solite cazzate italiane saranno. Proprio, ma facciamo perdere. cioè, ma te ne ricordo, stiamo parlando di 43 centimi, una struttura che costerà qualche, non dico 100.000 euro, ma ci andrà molto vicino, un traliccio di quelle dimensioni, non costerà meno di 30-40.000 euro. Tutto quello che c'è vicino, la casetta per i trasmettitori, eccetera, eccetera, tutto demolire, perché il progetto era tutto a costo. Hanno fatto delle verifiche, addirittura una cosa era un pochettino più piccola dal progetto, per cui il cubaggio, per dire, entra nel valore, perché c'è, dice, il 2% di tolleranza. Questo traliccio è a 43 centimetri dalla posizione in cui doveva stare e devono demolirlo. Abuso edilizio. Qua è no che vuoi fare, che so che vuoi, tu ti fai una casa, ti fai tre piani sotto in campagna, però, e non ti cerca nessuno. Questa cosa è un traliccio a chi fastidio può dare. Sì, boh, chiedo al sindaco, magari non le hanno dato qualche cosa che lui voleva. E allora ne ha fatto una pacca, cosa vuoi che ti dica? Misteri italiani. No, ma quello che ci piange, per dire, chi l'ha fatto? Mediaset, ha incaricato la ditta che tale e tale. Adesso quello che ha fatto il coso, l'impianto, si deve accaparrare le cose, perché Mediaset ti ha detto di fare così. Poi tu non l'hai fatto, sono problemi tuoi, lo deve demolire e chissà i danni che gli crea a questa televisione, non so se sia Mediaset o chi sia. Sì, vuol dire che la prossima volta saranno più attenti, no? Natale, facci sognare. Io cosa ti faccio sognare? Questo Gianfranco si mette a bucare gli apparecchi pure adesso. Cazzo, speriamo che ci abbia la mascherina e la cuffietta, c'è in camera operatoria. A proposito di bucare, Gianfranco, scusa se interrompo, il bar, te li avevi fatti tu quei buchi per inserire un nuovo microfono? No, io li avrei fatti meglio, non col trapano, ma con la forbice. No, ma tu l'hai preso già così, con quei buchi? Sì, era un apparato dedicato a un sistema particolare, dai, non stiamo puntini. No, no, perché, dico, potevamo farlo un po' meglio, dico. Sì, ma lì interessava che funzionasse, e funzionava. Caspita, se funzionava, quell'apparato faceva cose che non viene neanche bene a dirlo. Poi dentro ci andava anche la scheda di codifica, che è un optional, ma quella l'hanno tolta. E ho visto che c'ha delle predisposizioni anche per il GPS. Il GPS è attivo in quell'apparato? Credo di sì. Sicuramente è attivo il coso, l'Ale. Il Ale Alfa Lima Echo. Ale Alfa Lima Echo. Ma cos'è il sistema di codifica? No, ne. Allora, tutte le stazioni, anche navali, di un certo tipo, capiscimi al volo, e anche le stazioni a terra, quando vogliono parlare con qualcuno, ovviamente non è che devono stare a cercarsi i canali e a vedere un po' qual è quello migliore e qual è quello peggiore, mettono l'ale, quello che si sente ogni tanto in HF, fa e lui di lì controlla se la stazione è lì e se la riceve bene. Una volta stabilito il contatto sicuro, allora può iniziare a comunicare voce, dati, in quello che le pare, e sono certi che si ricevono. Sì, sì, ho capito. Ok, lasciamo un secondino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo, se no riprende l'amico Natalino. Nulla, vai Natale. E cazzo. Ma lo sai cosa mi sarei accontentato? Anche uno di quelli militari, mica, per ascoltare. Il fatto che Natalino, tu non ci dici cosa vuoi fare, capito? Perché sennò di roba già ce n'è in giro. Cosa voglio fare? Ascoltare. Mi servono le HF. E ti prendi un degente, che costa poco, e riceve benissimo, non bene benissimo, l'importante è che non c'è disturbi elettrici in zona. Però come ha detto Claudio, Gianfra, se fai un giro di conti, compri un ricevitore, aggiungi qualcosina poco a poco e ti prendi un ricevitore. Lo so, ma le conviene, a quel punto ne prendi un economico, però moderno, non un vecchio cartuccio toccato da 3.000 persone che poi... Adesso guarda, ieri ho sentito due stazioni che erano, tra l'altro su una frequenza strana, perché io sono quasi sempre in ascolto. E questi qua stavano parlando in inglese, non dicevano nominativo, non dicevano niente. Ho inserito la traduzione automatica dalla voce perché sembrava americano di quello sciolto. E questi stavano parlando che si voleva fare i denti, che si voleva fare quell'altro, eccetera. Ma la cosa strana è che c'era una banda così stretta, ma così stretta che sono stato dovuto mettere a livello di Hertz per capire quello che dicevano. E allora anche il decodificatore di voce, no? Quando sono, io uso quel sistema in modo che riconosce anche la lingua, ha iniziato a riconoscere quello che stavo dicendo. Era una comunicazione così banale, così strana, che mi è uscita la risa. E io ho mezz'ora lì per centrarli, quindi figurati con un apparecchio vecchio praticamente era impossibile ascoltare una cosa del genere. Boom, tutto esploso. Gatta, sì, sono qua. No, ti ha rilanciato, ha fatto una discussione, diciamo, un commento su quello che si stava parlando prima, pensavo rispondessi tu. E io ascolto. Tutti si fanno le orecchie grandi, Natalie, e ti dicono, ti chiamano i Dumbo, se c'hai le orecchie troppo grandi. La voce, l'ascoltofonia e così via. A te cosa interessa? Una HF mi interessa. Ho capito che tu mi hai detto la banda su cui devi operare, ma non cosa ti interessa ascoltare, perché sennò fai incontro a delle delusioni che sono tipo blocchetto tirato in faccia, cioè presente. Vabbè, diciamo non ha grosse pretese, perché a meno che non si cambia di casa Natalino, perché in quella zona lì non so cosa possa fare. Se deve andare dove abitava prima, di lì sicuramente c'è una posizione molto migliore, può installare anche delle antenne un po' più performanti rispetto a quella che potrebbe installare di lì dove sta adesso. Non devo neanche installarle, se vado lì sono già installate. Allora stai aspettando. Cuoco, ma lui non può fare queste cose perché c'è anche il cuoco, ma non hai capito che è ancora indeciso Natalino, che non insomma rimanere in piedi, roba. Ciao Luca, comunque. E adesso non parlami quel cuocuomane. Quando vieni qua ti aunzo, te lo do io se cuocuomane. Ti faccio stracciare i pantaloni lì dietro, così impari. E poi ci siamo sovrappopolati. È vero. Ma riprendete, dai, adesso sono qua in ascolto, che sto controllando la cosettina qua nella mia. Come si dice, la mia saldatrice. Luca, allora ti do un colpo di telefono, ti devo chiedere una cosa. Aspettando al varco. Abbiamo parlato in due. Mi hai sentito Luca? No, negativo. Non ho capito, c'è il varco, non ho capito. Che gliel'ho detto a Kurt, che gli ha detto che è cuocuomane. Ti sta aspettando al varco. Vabbè, dimmi Roberto. Domani, se mi ricordo, sono 5 minuti, ti do un colpo di telefono, ti devo chiedere una cosa. Quando vuoi, c'è il numero, chiamo quando vuoi. Via, no problem. Vai già fra. Sì, ciao Luca, buonasera. Niente, guarda, se vuoi ce n'è anche una di seconda mano, non c'è neanche la marca, 140 euro. Sembra carino però, un po' vecchio ma carino. Che cosa, Gianfra? Il ricevitore HF. Poi se ne vuoi uno un po' più grande, fresco, uno di quelli grandi quanto un televisore per professionali, ti costa 786 euro. Se invece vuoi sempre un ricevitore, però questo SDR c'ha 15 watt, infatti solo in uscita, però nuovo, 415 euro. Quello è bello. A 0,530, lo puoi usare anche come in CB. Cos'è, un ricevitore o un ricevitore? Un ricevitore di quelli economici SDR cinesi. Dovrebbe avere anche l'analizzatore c'è l'analizzatore di spettro, che ha tutte le bande e in più pochi pulsanti. Non so se sia touchscreen anche, perché non lo sto guardando. Poi c'è anche il famoso Xego G90, sempre HF 440, 20 watt, spedizione gratuita pura. Se siete contenti di quelli, ce n'è, questo addirittura è lo Xego, quello più piccolino, QRP, 220 euro, ma è fatto tutte le HF. Io ti consiglio quello con l'analizzatore spettro, sembra che ne parlino bene. Però beh, ma secondo te la Juve ha meritato il pareggio? Chi ha preso la Juve? No, con l'Inter. Diciamo di sì, dai, non nessuno ha avuto grosse occasioni, dai. Questo non mi dà fastidio, ma sempre all'ultimo, agli ultimi minuti. Oggi ha perso al 95esimo la Juve. Contro chi? Con Sassuolo, era finita la partita, ha fatto un calcio d'angolo, fa il contropiede, così lì, solo contro il portiere si è trovato, fa lancio lungo e l'ha fatto lungo, 2-1 al 95esimo ha vinto Sassuolo. Ma ci sa, la Juve vince sempre agli ultimi minuti. Wow, carità. Ha perso, non vinto. E dico, di solito vince per quanto riguarda il il rigore, sempre il rigore, alla fine. Vabbè, diciamo, c'è anche una tradizione, la Juve non è una squadretta da niente, anche gli arbitri sono un po' prevenuti, non è, prima di dare un rigore alla Juve devi essere sicuro, se no ti rovini la carriera, come quando succedevano i tempi passati di Vucci, devi stare molto attento. Però adesso piano piano le squadre si stanno equivalendo, dai, ne togli qualcuno, magari qualche volta fa qualche risultato, ma tu vedi squadrette tipo l'Empoli, che l'ha già picchiata la Juve, adesso è Sassuolo, poi magari gioca il Verona, ne ha fatto 4 alla Lazio. Poi già io gioco contro la Madrid e Mari vince 2-2. Vabbè. Ma comunque è già partita di campionato. Ehi, stanno giocando le squadre. Ieri il Milan ha vinto 1-0 col Torino, l'ho vista. Adesso mi stavo guardando la Juve, prima è andato il Sassuolo in vantaggio 1-0, un bel gol ha fatto. Poi ha pareggiato di testa McKenny, l'ho preso un bel gol. Finita la partita, mi erano già nel recupero, al 94esimo e 30 secondi hanno fatto un contropiede, un lancio lungo, solo la volta al portiere ha vinto, al 94esimo. Oh, Roberto, dimmi qua. Su quella Inter di Roberto c'ha ragione Luca, che si è uscito anche alle Iene ieri, che c'è una truffa, vero? Si poteva dare il rigore, dai, non è così clamoroso, ne ho visto di peggio, dai. No, ci danno più quei rigori, io finiamo, a volte bisogna essere sportivi, cazzo, Roberto, non ci danno più, l'ho fatto via alle Iene, cioè non esiste, però non è un rigore, è un contratto a due, cioè ci è arrivato prima Alessandro e ha toccato l'altro, ha toccato la scarpa praticamente, lo stick, chiamalo come vuoi, e basta, è caduto, ma non ci danno quel rigore. Hanno intervistato Paparetta, l'ex arbitro, ha detto la stessa cosa, le Ienemi, cioè dai, lì avevo ragione a lui. Alla fin fine ci sono sempre polemiche tra Inter e Juve, Juve e Inter sempre per queste stronzate, ma quello per me non era rigore da dare, anche perché la partita stava continuando, eri lì davanti, hai alzato le mani, hai detto tutto a posto, niente, tutto ok, poi ti chiama il VAR, ma che cazzo di arbitro sei? Non so, purtroppo non c'è uniformità di giudizio, quel rigore su 10 partite magari 3 lo davano e 7 no, c'è altri rigori più clamorosi, non li hanno dati, perché ti dici, ma come si fa a non dare un rigore del genere senza far nome Cagliari, Napoli, lo stesso Inter, la stessa Juve? Io dico sempre, c'è sempre una bilancia nel calcio, oggi ti va bene, domani ti va male, sempre se c'è l'onestà e la buona fede, perché ci sono state situazioni di malafede anni fa, infatti è successo quello che è successo, la Juventus è stata retrocessa, e altre squadre del calcio scommesse non ne parliamo, eccetera eccetera, però io dico c'è sempre la legge del compenso, la Juve inizia 95 su altre partite, io già ho perso. Ma ho perso perché doveva perdere, perché gli ha fatto il culo a Trani Grillo, Sassuolo, hai capito? Poi quella Juventino non è una squadra che sta giocando, che sono organizzata, non è nulla, cioè è partita male e se continua così manco il Champion entra, capito? Perché al quarto posto la Roma è stabile, rimane lì al quarto posto, perciò vai tranquillo. Ma io parlo da sportivo, almeno me ne ha fatti nulla, ripeto, non mi entra dietro in tasca, però giocare a quei livelli, una squadra che ha vinto per 5 anni consecutivi, ha dato dimostrazione di calcio a tantissime squadre, cazzo si è partita con un campionato di merda proprio, cioè come che non esista, capito? Il Sassuolo gli ha fatto il culo a Tana di Grillo, se l'hai vinto la partita riguardatela bene, e ha meritato di vincere, anche se ha vinto il 95esimo il Sassuolo, ha meritato di vincere, è così. Io sono così, parlo in faccia, non ne ho problemi, capito? Però la partita Inter-Juventus per me il rigore non era da dare, magari c'era, ma non era da dare, basta, hai già detto no, non ce n'è il rigore, ti chiamo al VAR ed è il rigore, ma vai a cagare, vado a cenare, ciao Lugarie, ciao a tutti, venga, vai a Cla. Meno male, ciao Cla, saluti a Anna, a tutti, meno male, dai, almeno la sincerità, ogni tanto, dai, va bene. Io la verità la partita non l'ho vista, sono sincero, però vabbè. Con la mia partita ho cazzo all'ultimo, almeno dico segna all'inizio, ci stava a far culo, è segnato all'ultimo, dopo il rigore, è quello che dà, cioè, dà fastidio. Lucarie, io lo sai, volevo criticare il critico, non era da dare rigore, era una partita da 1-1 perché è stata una bella partita, a prescindere da chi ha giocato meglio a chi ha giocato peggio, era una partita da 1-1, capito? Era una partita da 1-1, sicuramente, ma non da dare rigore, capito? Perché se segnava e pareggiavano su azione, io ero contentissimo perché hanno giocato bene tutte e due, ma pareggiare su un rigore al 95esimo, certo, non era da dare quel rigore, punto e basta, secondo me. Io stamattina ero con interisti, milanisti, juventini, e ha giocato il gaddo, e hanno detto, cazzo, molto non si juventino, no, io gioco sportivo, non era da dare il rigore, punto e basta, poi tu puoi dire quello che ti pare ti piace, io l'ho preso così, poi il gioco del calcio lo conosco, per me, ti sto dicendo, alle Iene, Paparetta, che è stato uno dei migliori arbitri italiani, del campionato italiano e europeo, ha detto, io, l'arbitro non l'avrei dato, basta, avrei fatto continuare l'azione e poi vinca il migliore, basta, così. Ciao a tutti, a dopo, ciao. Ah, Robè, hai visto che è morto, Tavoni? Sì, lo so, lo conosco da quando sono nato, a Giulio, lo conoscevo, anzi, ci siamo sentiti 2 settimane fa, me l'ho raccontato a Claudio, perché mi ha chiesto una cortesia, se per un restauro, lui ha 2 biciclette, c'ho nel cellulare fotografie, e sono fatto 2 biciclette antiche del padre e della madre di quando erano ragazzi, e prima della seconda guerra mondiale, degli anni 35, 30, così, e mi ha detto se le restauravo, cacchio, devo dare la risposta, ha detto sì, adesso faccio un giro di conti, non mi frega niente di quanto pago, l'importante è che me le restauri, perché le altre erano rottame, no, non mi interessa, minchia, ieri sera mi ha chiamato, anzi avanti ieri sera mio cognato, e l'ho saputo quasi in diretta, ecco, quando è successo. E l'ho letto comunque, ciao Cla, buona cena, comunque l'ho letto, il giornale, praticamente è venuto un dolore forte al petto, anche un formicolio al braccio sinistro, e la crepato, È successo così, lui aveva questo dolore al braccio. Scusa Gianfra, se sto monopolizzando, è andato dal medico, dal cardiologo, quello appena l'ha visto, bisogna ricoverare, non mi ricovero, ha preso il piede e se ne stava andando, c'era dalle scale, tuc, fulminato. Ah ecco, ho capito, vabbè. Vuol dire che era la sua ora, dai. Tanto ognuno di noi ha una data, prima o poi, avanti, riprendi Gianfra. Casa tua sei lui? Sì, sì. E si vede il segnale, una bomba. Gianfra, ci sei? Sto parlando. Cos'hai detto Gianfra? Sto saldando. Ah, saldando. Mettiti gli occhiali, la maschera, i guanti e il cappotto. Vai Natale. Natale. Comunque mi sono comprato il secondo panettone, il primo me lo sono già mangiato 2 settimane fa e oggi me ne ho preso un altro. Che roba, per carità. Io pensavo che se continuo così devo farmi operare, però sono un mal di pancia, già da ieri, quel mal di pancia leggero, e sono costretto a prendermi, come mai passo il coso, vabbè, aspetta un attimo, sai che il coso passo, riprendilo però. Ehi, perché cosa c'è? Vabbè dai, fai e poi mi dici. No, dico, i calcoli a Cistifera, capito? Poi ho abusato adesso di roba che non potevo mangiare, tipo patatine fritte, fettine impanate fritte, sono cose così, polpette fritte. Se di nuovo messo in moto il tutto, comunque se finisco con il dentista prendo l'appuntamento, cioè vado al medico, glielo dico, passa così, sarà possibile, io vorrei operarmi, ma ok, vado d'urgenza, pronto soccorso, faccio faccio finta che mi, proprio mi fa un bel male, male, male, male, mi posso recuperare. Che va qua, ma tu roba gasata, bevi? No, la pizza solo. Che credo che sia. Il Pagliari comunque ha preso l'incrocio del Pagliari adesso, sarà magnato, magnato. Sfortunato. Vabbè, purtroppo non ho pensato come fa. Beh, io il fritto lo amo, le uova sono due o tre anni che non ne mangio, però quando metto le uova nella torta che ha fritto, oppure male fare fettine impanate, c'è l'uovo, non è, diciamo così, che ce n'è tanto tanto, però l'uovo proprio da solo sono anni che non ne mangio, che io lo amo, ho le cipolle. Purtroppo poi anche quando invecchiamo, tu vabbè deve essere più giovane di me, certe cose non le digerisci come le digerivi 10 anni fa, per cui deve stare anche un po' con tutte le schifezze che ci sono, la roba di che non sono per niente sane come potevano essere 20 anni fa, e infatti sono molto attento, anche se poi sono goloso, certe cose me le mangio, perché dico io me ne ho fottuto da tanto, non manco muoio sazio. Ah, e beh, certo. Però è brutto, vabbè, non so se tu mi hai avuto mal di pancia forti, io ne so qualcosa, tipo alle 2 di notte, ho dovuto chiamare anche l'ambulanza, cosa mi è successo 3 anni fa, 3-4 anni fa. Io so cosa vuol dire, perché ho avuto le colite renali 2 volte da morire, è successo una volta, ero in corso, mi sono buttato dalla macchina, all'altezza di, è presente l'incrocio tra Corso Trinità e cos'è, con la via di Sicilia, però non so perché altro si chiama, ma che vai a cavalcavia, ho aperto la macchina, mi sono buttato in strada, proprio buttato nella marciapiede, talmente era forte il dolore, e ho detto speriamo qualcuno venga a prendermi, poi non so qualche santo, mi ha aiutato, sono riuscito a farmi un po' calmare, ma del dolore sono andato in macchina, mi sono riseduto, in mezzo a strada tu fai conto, vuoi un macco, se esci dalla macchina e ti butti in strada, in terra, come tipo quando ti hanno ammazzato. Sono riuscito ad arrivare al pronto soccorso, come arrivato lì, il dolore si è calmato. L'atto calmato per qualche ora la notte, all'una di notte, poi ti succede sempre la notte, subito al pronto soccorso. Infatti farò così roba. Speriamo bene, dai, che mi dia il tempo di arrivare almeno. Alle 10, così faccio quello che devo fare e mi finisco il lavoro al dentista e così sono a posto. Vediamo se è diventato Natalino, si è già purizzato, Gianfranco, vediamo se ha smesso di saldare. No, ci ho provato, ma sei tutto infasciato. Ma volevo sapere, cos'è stomaco o intestino? Anch'io? Sì, come viene da Luca? I calcoli alla cistifedea, ho capito. E poi mi stanno venendo questi crampi allo stomaco. Provo a fare quando sono a digiuno, là. Quando mangio un po' mi passa, poi mi vengono questi crampi brutti. Sì, la cistifedea. No, pensavo fosse all'intestino. E comunque sempre addominale l'operazione. Io ci sono già passato, però per quella intestino, non per quella alla cistifelle. Credo che vada bene ancora quella. Vabbè, io ne ho abusato, dai. Perché un giorno il fritto maledetto, a me piace un sacco. Un giorno bastoncini, un giorno sofficino, un altro giorno ancora patatine fritte, poi domani ancora le uova con le cipolle, insomma così di continuo. E poi alla fine mi ha seccato e purtroppo queste cose volevo mangiarle una volta al mese, dicono. Io infatti ci faccio passare il tempo, a me piace molto la pizza con le patatine fritte, però ne faccio a meno. Vabbè, tanto se lo fanno anche quella è la laparoscopia, quindi non dovrebbero fare troppi buchi, dai, se ne fanno, quanti sono? 3-4 buchi, quindi niente di particolare. Ma è locale la farlo, Gianfra? No, se è all'addome, no. Tutte quelle all'addome sono definite grandi operazioni, operazioni complesse, perché se succede qualcosa devono immediatamente aprire, capito? E quindi l'anestesia comunque è totale, perché sono parti un po' cioè tutto un accumulo, addome, cioè intestino, stomaco, dietro ci sono i due reni, anche se sono più in alto, però ci sono tutti i canali, i nervi, e chi più ne ha più ne metta, il fegato, insomma tutta roba da maneggiare con cura. Sozzemino, là. Comunque l'anestesia è totale. Sì, sì. No, non lo so, l'altro giorno, cambiando discorso, parlando solo sempre di medicina, cioè mio cugino purtroppo ha problemi gravi, gli hanno fatto il trapianto, tramite il trapianto di midollo, al figlio gli hanno fatto l'anestesia totale, dice abbastanza delicata la situazione, mentre al padre no, gli hanno fatto locale. No, dipende, l'anestesia locale è più semplice, la fanno quando magari devono tenere il paziente un pochettino al sicuro. L'anestesia totale è sempre comunque un rischio, a volte anche un rischio maggiore dell'operazione diciamo vera e propria, per il semplice motivo che iniettano sostanze che inibiscono la muscolatura, capito? E quindi anche i polmoni, è per quello che si fa l'intubamento. No, ma io parlavo di mio cugino che ha la cosa, la leucemia. Il figlio è stato il donatore di midollo, al padre malato gli hanno fatta locale, mentre al figlio donatore gli hanno fatta totale, quello che mi ha colpito. Perché armeggiando di una schiena può darsi sia molto, molto doloroso, capito? Però la sostanza è sempre la stessa, sono operazioni e sai, di norma va sempre bene, però c'è sempre quel però da tenere presenti. Lo so, infatti tutti e due psicologi li hanno chiamato, li hanno tutti preparati, soprattutto anche a mio cugino, al donatore, la cosa. E dice, poi stavamo parlando, dice deve stare sotto controllo per 10 anni lui. Ma chi, il donatore o quello che riceve la donazione? Allora, il donatore sto parlando io, quello che riceve l'operazione deve stare sotto controllo quotidiano, diciamo, perché gli hanno già detto che c'ha 50-50 di possibilità che vada in porto o che ci sia rigetto, l'hanno già avvisato, perché è un po', non è compatibile al 100%. Il donatore dice deve stare sotto controllo per 10 anni, ogni tanto devi fare delle verifiche, eccetera. Sì, quella è una brutta bestia, la leucemia. Io ho un collega che ce l'ha avuta, ma dopo tanti anni d'ospedale, da piccolino, ne è uscito. Adesso è un gigante, solo lui si spaventi, roba di 1,90. Non lo so, purtroppo io ho avuto due parenti vicinissime, due mie zie, una purtroppo se n'è andata, altre tre, due se ne sono andate, vabbè, una era grande d'età, l'altra fortunatamente sembra che abbia fatto presa, diciamo, e sia riuscita a superarlo, però è sempre attenta, basta un raffreddore, una cosa, devi stare molto molto attenta. Sì, qualche rimasuglio c'è anche. Anche per quella, Luca, credo che ci sia l'intubazione, secondo il tipo di anestesia totale che fanno, da quella non si scappa. Sì, tanto una volta che sono addormentato non ti accorgi di niente, non è che... Il brutto è se sei, magari, che vedi, ma sai che lì ti addormentano, fanno tutto, ti portano su, non ti accorgi di niente, sei addormentato, poi non rientri, come si dice, in stanza, poi ti svegliano, e c'è quello che è successo. Sì, è vero. Vabbè, tutti in realtà quando ti chiamano prima ti fanno un'iniezione e poi ti non senti niente quasi, tu sei perfettamente sveglio, duri quanto saranno 5 minuti, poi 5 minuti ti mettono una mascherina, un bel respiro, tanto non mi fa niente, capito? questo dipende se questa è la tua prima esperienza o se ne hai avute altre, non so. No, grazie a Dio no. Comunque prima ho il dentista che mi devono fare l'anestesia, quasi addormentato, perché devo fare un intervento, capisco, e niente, quello sarà la prima volta. Vabbè, partorito, non ti hanno addormentato, il cesario, Luca? No, sono ancora incinto io. Cos'era? È naturale il parto.